Shh, lascia stare. Non fa niente. Non è successo niente. Cresciamo ripetendo queste parole come un mantra, fino a crederci. E quando ci facciamo l'abitudine, ci ripetiamo ossessivamente: no, non se ne parla. Ed è vero, non se ne parla abbastanza e abbastanza bene degli abusi sessuali nei confronti dei minori. Così questo podcast si origina da quell'espressione che abita le nostre teste per anni, fino a quando assumiamo una consapevolezza sulla nostra condizione. In Italia siamo assai reticenti a parlare di abusi sull'infanzia, perché quando non ci manca il fiato, ci mancano le parole. Questa serie vuole aprire uno spazio di confronto che decostruisce l'immaginario fatto di soli stigmi, per riabilitare i vissuti delle persone abusate in età infantile, a cominciare dal lessico e dalle forme di narrazione. Su questo sentiero incontreremo le testimonianze di chi compie una marcia simile alla nostra, da più tempo, per prendere in consegna il testimone e passarlo laddove ancora non se ne parla. Noi siamo Francesca Svanera e Gabriele Rosato e questo è un podcast di Meti. Benvenute, benvenuti e benvenuti a Non se ne parla, il podcast che alza il volume delle storie silenziate. Noi siamo Francesca Svanera e Gabriele Rosato e oggi ci confrontiamo su un argomento locale e globale che mi sta molto a cuore, perché si tratta di una parte del mio ambito lavorativo, l'attivismo sui social. Vero, Franci. Infatti, la diffusione dei social network ha permesso anche alle persone lontane dai grandi centri di impegnarsi a cause sociali, dando vita a nuove forme di attivismo online, quindi digitale. Ed è per questo che oggi ne parliamo con una delle voci più influenti e attive del panorama digitale italiano. Con noi oggi ci sarà Federica Fabrizio, che è nota sui social network come Federippi. Attivista e influencer, Federica è pronta a combattere il patriarcato con lo zaino in spalla, ma anche con la penna, essendo pure autrice del libro Femminucce, donne che cambiano le regole. Allora, benvenuta, Federica. Grazie, grazie mille. Intanto grazie per questa presentazione che è stata dolcissima. Mi è piaciuta tantissimo la parte dello zaino in spalla, che io sottovaluto spesso, ma secondo me girare per il mondo, pensare globale, fa anche parte, no, di un processo di riscoperta delle reti, delle relazioni. Vabbè, ma l'argomento è un altro, quindi non mi perdo in chiacchiere. Ma era interessante, potevamo andare. Facciamo un'altra puntata, secondo me, su questo. Ci sto. Io volevo chiederti una cosa, proprio perché stai parlando e stai dicendo che hai girato tanto, che hai visto tante cose, hai visto anche lingue e linguaggi differenti da quello che magari può essere il linguaggio occidentale che utilizziamo noi. Qual è secondo te, in tutte le lingue, quindi per una volta cambiamo e lo facciamo diventare un po' più globale questa domanda, qual è la parola meno detta o detta male o non detta per niente? Allora, facciamo che la prendo un po' alla larga. Allora, la parola te la dico subito, però ti spiego il perché facendo un giro un po' largo. Allora, la parola è violenza. E il motivo per cui, secondo me, va un attimo ripensato l'utilizzo di questa parola è perché siamo abituati a pensare alla parola violenza associata a un contesto molto specifico, è quello della violenza agita, no? Su una persona o su un gruppo di persone. E c'è un po' questa eterna svalutazione di quella che è la violenza di risposta. Recentemente mi è capitato di confrontarmi con l'autrice di un libro molto molto bello che si chiama Le conseguenze, è una graphic novel illustrata e scritta da Stead, che vi consiglio di recuperare. E dentro questa storia raccontata in questa graphic novel si riflette molto sull'uso sia della parola violenza sia della violenza. Infatti quando lei nel libro parla di conseguenze, non parla tanto di conseguenze come quelle che noi subiamo quando denunciamo per esempio una violenza. Sappiamo che comunque il ciclo di violenza non si ferma mai, perché è un sistema che c'è nemico in tutto e per tutto. Lei si concentra invece sulle conseguenze che ricadono sulle spalle di chi agisce quella violenza. Cioè, io ti rispondo, io resisto a modo mio, a volte anche dandoti, che ne so, un metaforico o meno calcio, e tu ti becchi quella conseguenza. Spesso quella conseguenza è altra violenza, che però è una violenza in qualche modo necessaria. Questo non ce lo diciamo abbastanza spesso. Noi siamo sempre concentrate giustamente sull'elaborazione del trauma, su quello che vuol dire fuoriuscire dal ciclo della violenza, di qualsiasi violenza si tratti, ok? Però non parliamo mai abbastanza spesso del nostro diritto di reagire con rabbia a quella violenza, e la reazione a volte è violenta, ma non credo che possiamo parlare di della stessa violenza in qualche modo. Cioè è come se mi servisse una parola nuova, perché ormai quella che conosciamo l'abbiamo associata a un contesto del tutto alieno da quello che intendiamo noi, che è resistenza. Quindi non so bene in realtà dove voglio andare a parare con questo discorso, però usare il termine violenza sui social è molto difficile, tant'è che se ci pensate tutte le volte che a me capita di fare delle storie scritte o parlate che raccontano degli episodi di violenza di genere, magari anche commentando, che ne so, l'ultima notizia, mi capita spesso di dover censurare la parola violenza, perché l'algoritmo non capisce che la sto utilizzando per descrivere un fenomeno, pensa che la stia utilizzando per agire violenza. Quindi abbiamo proprio un problema di semantica nei confronti di questa parola, oltre che di immaginario collettivo, eccetera. E io non so chiaramente come fare a fermare questo ingranaggio che si è inghippato a un certo punto, secondo me. Però non so, ho sempre questo dubbio, cioè ultimamente sto riflettendo molto su questa cosa e non trovo una risposta, quindi nel caso me la darete voi. In realtà sei tu che già hai dato, oltre che delle risposte, pure l'occasione di entrare a gamba tesa in questo argomento, che proprio perché è molto ampio è anche spesso esteso pure nei suoi contorni, qualche volta sfumato, come tu dicevi, con il linguaggio, che la stessa parola può essere agita in modi diversi, e questo dice anche molto di quanto il linguaggio sia anche uno di quegli strumenti fondamentali per l'uso consapevole dell'attivismo digitale. Quando Francesca e io ci siamo messi un po' a ripercorrere il tuo percorso come attivista digitale, abbiamo capito quanto è complesso anche rispetto al fatto che non è un lunghissimo arco di tempo quello di cui si fa attivismo digitale, ma è come se avesse segnato talmente tanti eventi in questo circuito di tempo che c'è anche molto da analizzare. Quindi ci siamo anche un po' domandate cosa ha contraddistinto la tua ispirazione, da dove in qualche modo hai cominciato, cioè se c'è stata una scintilla che ha dato il via a tutto. E dato che parliamo di un mezzo in continua evoluzione, sicuramente anche partecipato e che segue dei trend, un po' come ci dicevi poc'anzi, cosa significa per te fare attivismo digitale e cosa sta cambiando rispetto anche a quando tu hai cominciato? Allora, fare attivismo digitale per me in realtà non vuol dire nient'altro che occupare un ennesimo spazio. Io credo che sia molto bella l'idea per cui smettiamo un po' di operare questa distinzione tra spazi di serie A e spazi di serie B, inteso come viene prima l'attivismo dal vivo e poi quello online. Io penso che queste due pratiche dovrebbero essere complementari, no? D'altronde nessuna di noi sa bene come fare attivismo sui social, siamo un po' la prima generazione che si è trovata di fronte a questa piattaforma con un'enorme potenzialità e ha deciso di provare a inserirsi nelle pieghe di un sistema che era anche etere, no? È chiaro che i social non sono stati inventati per farci attivismo, sono stati inventati per postare le foto delle vacanze probabilmente, per cui è chiaro come sia una forzatura dell'algoritmo. Infatti l'algoritmo stesso evolve, no? Viene modificato costantemente per limitare l'uso dei contenuti politici. Questo l'abbiamo visto dopo le varie elezioni, cioè chi scrive gli algoritmi dei social non è molto felice che noi utilizziamo questi spazi per fare divulgazione, per fare politica. E quindi credo che per questo motivo vada fatto, perché non è nient'altro che uno spazio che, come qualsiasi altro spazio, ci sta dicendo in modi chiaramente diversi rispetto ai nostri soliti che siamo scomode, che stiamo mettendo in atto delle pratiche scomode al sistema, perché gli algoritmi dei social network non sono altro che una piega del sistema stesso, sono scritte da persone che hanno dei bias, sono scritte da persone spesso privilegiate, che quindi mettono in atto tutta una serie di discriminazioni che vediamo anche fuori. Quindi è molto interessante per me allenarmi a riconoscere le stesse cose dentro e fuori. Siamo molto meno ingannabili probabilmente se riusciamo a riconoscerle tutte quante. E infatti non è che siamo proprio gli unici che hanno capito come sfruttare al massimo le potenzialità di questa nuova forma di comunicazione, tant'è che i politici ci fanno la propaganda sopra. Cioè, abbiamo visto durante le ultime politiche, tutti su TikTok a un certo punto, no? Destra, sinistra, quindi perché noi non dovremmo starci? Se non ci stiamo, lasciamo campo d'azione molto più comodamente a loro, che già hanno N privilegi. Io direi di provare a mettere i bastoni fra le ruote dove si può, e quindi pure sui social. È cambiato tanto in tutto ciò, perché come dicevi tu, Gabri, io in realtà faccio attivismo sui social dalla pandemia, quindi fai dal 2020, la metà di quell'anno stranissimo, perché io avevo iniziato a frequentare alcuni collettivi, poi all'improvviso gli spazi fisici sono stati abbandonati, chiusi per tutto il periodo della pandemia, per cui ho iniziato a cercare persone che parlavano delle stesse cose però online. E mi sono nutrita di questi contenuti a lungo e a un certo punto mi sono detta: ma magari può essere utile se anch'io recensisco questo libro, boh, così, perché nel frattempo un po' di persone erano arrivate, perché parlavo principalmente di libri all'inizio. E quindi ho pensato: se la persona X è stata tanto utile a me, io magari posso essere in minima parte utile alla persona Y. E quindi lì poi si è avviato tutto un ciclo che mi ha portata qua. Chiaramente erano diverse. Io dico sempre che ho iniziato a usare i social quando non esistevano ancora le storie. Cosa facevamo tutto il giorno? Io non mi ricordo più cosa facevamo tutto il giorno senza le storie. Probabilmente postavamo molto di più e cose molto più stupide, non lo so, però capito, è cambiato tantissimo e cambierà ancora tantissimo. Cioè, quando noi tra un anno riascolteremo questa puntata, diremo: ah, stolti, noi che pensavamo che fosse tutto, capito? Cioè, ed è una cosa, se vogliamo, anche molto bella, perché ti impone una costante... un costante cambiamento, un costante adattamento, che poi è tutto ciò che, per esempio, fascisti non vogliono, quindi abbiamo vinto noi. No, non è vero, però vinceremo. Bellissimo questo, mi è piaciuto proprio tanto. Quindi, auspicandoci questo futuro di vittoria, mi viene naturale farti quest'altra domanda. Anch'io ho iniziato tardissimo, sono vecchia, quindi sono della generazione dei boomer, quindi i social veramente li ho conosciuti nel periodo pandemico come persona che ha usufruito, e grazie a persone come te ho imparato e ho cominciato a decostruire tutto quel patriarcato che avevo dentro di me, che era proprio bello radicato, bello forte. Poi sai, vengo comunque dalla generazione, non è la RAI, che comunque ci insegnava ad essere altro, e quindi sentire, ascoltare che c'erano spazi diversi, che davano una comunicazione diversa, che quella comunicazione io non la conoscevo, per me è stato fondamentale. Poi pian pianino ho iniziato anch'io a fare attivismo, perché proprio, come ho detto te prima, a un certo punto scatta: se anch'io posso dare un qualcosa agli altri come gli altri lo hanno dato a me, perché non farlo? E parlando nel mio caso di argomenti sensibili, comunque parlando di abusi, spesso sono venute persone che richiedono delle attenzioni diverse, cioè mi seguono molte persone che hanno subito violenza, e anche tu comunque con tutto il lavoro che fai spesso sei a contatto con persone che hanno subito violenze. Quindi mi domando, secondo il tuo punto di vista, questo può essere uno spazio di cura, non inteso magari troppo come io vengo e faccio lo psicologo, che assolutamente Instagram secondo me non è il posto per fare questa cosa, ma che sia un altro tipo di cura, che forse è un nuovo tipo di cura? Punto di domanda. E l'altra cosa è, secondo te, però più o meno hai già risposto prima, però proprio con questo pensiero, se serve fare questo tipo di attivismo con questo sguardo nuovo? Allora, la prima è una domanda molto difficile, perché io sono molto combattuta sulla questione della cura, perché naturalmente, essendo appunto, come dicevamo all'inizio, una estensione del mondo fisico, il social non è proprio la terra promessa, ecco, della comunità, della cura. È una piattaforma comunque che ti pone in modo molto poco orizzontale nei confronti delle persone. Cioè, io sono lì che parlo, con un telefono che non mi risponde, attraverso cui poi posso leggere dei messaggi di risposta, ma non è mai un rapporto uno a uno, è un rapporto uno a tanti, e quindi questo mi impedisce in qualche modo di dare la stessa cura, la stessa attenzione a tutte le persone che mi scrivono. Tantissime volte a me capita di perdermi dei messaggi. Poi magari dopo mesi quella persona mi riscrive: ciao, scusami se ti disturbo, ti avevo scritto 8 mesi fa chiedendoti, io mi sento una merda, dico cavolo, vedi, non ho risposto. Ma perché a volte è, per come funziona il social stesso, questa dinamica dell'attenzione costante un po' la perdi. E forse meno male, non lo so, perché altrimenti io sono una di quelle persone che starebbe lì a rispondere tutto il giorno, sacrificando poi qualsiasi cosa della mia vita privata, vabbè, ma questo è un altro discorso, perché proprio manca la possibilità di mettersi in cerchio e parlare. E questa è una cosa che invece, per esempio, si è fatta da sempre come movimento femminista. Penso all'autocoscienza, penso ai cerchi di autocoscienza che dagli anni 70 fino ad ora hanno salvato e salvano tantissime persone da situazioni, semplicemente perché hanno uno spazio in cui raccontare, perché molto spesso non si va a cercare delle risposte, si va a cercare uno spazio di ascolto. E in qualche misura, seppure minima, forse anche i social consentono di trovare questo piccolo spazio. Certo, è difficile, perché appunto a volte non hai una persona che dall'altra parte ti dice: ti sto ascoltando, ti capisco, ti credo, andrà meglio, no? Hai un muro che forse a un certo punto comparirà una nuvoletta con scritto "sta scrivendo". Questo è il massimo di quello che si può sviluppare. Ecco perché poi è molto bello quando le conoscenze virtuali riescono a trovare il modo per diventare reali, perché lì hai veramente idea di quanto quello che hai detto, quello che hai fatto ha generato un impatto, in primis su te stessa a volte. Cioè, io mi rendo conto che le persone che ho incontrato, per esempio tramite le presentazioni del libro, sono persone che io probabilmente, persone e storie che mi porterò dentro per tutta la vita. Perché lì, per esempio, dopo le presentazioni venivano delle persone a dirmi: ho visto su Instagram che presentavi il libro e sono qui, se ti va ci facciamo una birra. E lì era tutto, cioè ci trasforma tutto poi, ed è una cosa molto bella. Quindi non lo so se mi sento di dire che al 100% si può praticare o si può trasformare uno spazio digitale in uno spazio di cura, ecco. Però ci si può provare, si può comunque provare a trasformare qualche regola che è stata scritta senza pensare alla cura. Creare una società della cura a partire da lì, non lo so. Però magari si può apprendere della teoria da poi mettere in pratica in altri luoghi. Questo secondo me può essere fatto. Quindi, diciamo, date queste premesse, secondo me ha molto senso continuare a provarci. È molto utile continuare a provarci, proprio perché non voglio compiere l'errore di dire è uno spazio sterile, perché non lo è, perché è abitato da persone che tutto sono meno che sterili. Cioè, io ho trovato delle persone che hanno delle idee incredibili, con delle storie incredibili, che solo necessitano di essere messe in contatto, e quindi tanto vale provarci. Io poi sono una di quelle persone che nell'ambito specifico dei social vede più il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto, quindi secondo me questa puntata andava condotta con un'altra persona che ha un'idea diversa dalla mia, perché io sembra sempre che dico sì, ce la faremo, saremo bravissimi. Non lo so se questo è vero, però mi piace crederlo, ecco. Io ho l'impressione che questa cosa che tu dici sia anche un po' la conseguenza del fatto che, da quanto ho appreso dal tuo racconto, sei una persona che ha fatto attivismo innanzitutto sul campo fisico, a un certo punto si è servita anche, come dicevi, dello spazio digitale per estendere, per un ennesimo spazio nel quale raggiungere. E forse un'altra prospettiva è quella delle persone che magari già erano nell'ambito della visibilità per via dell'intrattenimento, quindi, o che erano già influencer per altro, che sono poi che prestano anche la loro visibilità per l'attivismo, e quindi forse c'è un incrocio che produce effetti diversi da un lato e dall'altro. Secondo me c'è anche un altro tema, scusami se ti interrompo, c'è anche il tema del privilegio. Perché io sono stata, cioè la mia idea si è plasmata molto su quella che è la mia personale storia, cioè il mio personale rapporto con i social, che è sempre stato un rapporto tutto sommato tranquillo, cioè banalmente non ho mai subito del bullismo, ok? E quello potrebbe essere, cioè, un fattore rilevante, cioè se il mio primo approccio con i social fosse stato violento, ecco, per tornare all'inizio, sicuramente avrei avuto delle idee differenti, sicuramente non avrei riposto così tante speranze in uno strumento che mi ha fatto in primis molto male. Quindi sicuramente il mio punto di vista è viziato anche dall'esperienza positiva che ho avuto negli anni, ecco. E che in effetti quale delle nostre prospettive non è poi di fatto viziata? Necessariamente è proprio questa la motivazione per cui ci passiamo continuamente il microfono oltre che lo sguardo. E appunto ascoltandoti stavo pensando che uno degli aspetti affascinanti dell'attivismo digitale è quella capacità di dar voce a persone e comunità che altrimenti rimarrebbero silenziate o comunque inascoltate. Francesca ed io lo facciamo con i nostri mezzi, lo facciamo anche con questo, la stessa pagina di Meti ovviamente, e chissà che qualcuno non ci stia ascoltando perché ci ha raggiunte attraverso una tua storia o qualcosa che sarà circolata in rete. E dunque l'attivismo digitale ha questo potere di sensibilizzare e mobilitare persone su larga scala. E sottolineo questa chiave che comunque è un potere, e mi collego anche a quel discorso che tu facevi sulla duplice lettura dell'espressione violenza. Ma spesso c'è anche il discorso con il quale ci si scontra con una più o meno vaga superficialità dovuta anche al suo tempo, al tempo che dura una storia, al tempo che dura la nostra attenzione. E d'altra parte l'attivismo digitale spesso si manifesta attraverso campagne, post, forse ormai meno gli hashtag, ma comunque che diventano virali per raggiungere le persone. Ma a te sembra mai di parlare a una nicchia, cioè magari anche a una grande nicchia, popolata nicchia, ma che ci sia una sorta di barriera naturale per sfondare il muro dell'incomunicabilità? Allora, in una sorta di giungla fatta, come ci dicevi prima, di algoritmi, ban, semantica, secondo te si può davvero parlare di tutto sui social? E cosa raccomandi per un uso intersezionale delle campagne digitali? Questa è la domanda a cui io vorrei avere una risposta, Gabri, onestamente, perché è l'eterno dubbio di chi utilizza i social o perlomeno di chi prova a farlo in modo vagamente etico, perché è comunque un mondo dominato dalle stesse logiche che dominano il mondo di fuori, quindi di base capitaliste. Tu prima hai detto la parola potere, mi hai acceso una serie di riflessioni in questo senso, perché uno dei grandi problemi, secondo me, del social, della viralità, della visibilità, è che ti porta a un accumulo, anche se virtuale, di potere. Cioè poter influenzare delle persone attraverso le tue idee, i tuoi ragionamenti, è un potere. E siccome io credo molto in una frase che, se non mi sbaglio, venne scritta da Giulia Blasi in un suo libro, ovvero il femminismo non vuole sedersi al tavolo del potere ma vuole ribaltarlo, sono sempre un po' combattuta tra questa cosa del ok, per farmi ascoltare da più gente possibile devo raggiungere un certo numero di persone che no, leggono, ascoltano quello che dico, e dall'altra parte dico però più questo numero sale più ho potere nelle mie mani, io questo potere probabilmente non lo voglio, è tutto ciò che vorrei distruggere, e quindi mi chiedo qual è la linea, cioè dove fermarsi, io questo chiaramente non lo so, anche perché una di quelle cose da mettere subito in chiaro quando si parla di social è che funziona l'individualità, cioè noi qui stiamo parlando di dinamiche comunitarie, di movimenti, la cosa bella di far parte di un movimento è che principalmente non devi per forza metterci la faccia, non devi per forza metterci la voce, puoi fermarti, cosa che invece la società ultracapitalista individualista non ti consente di fare perché ci sei solo tu, invece se sei parte di qualcosa tu puoi fermarti perché altre persone raccoglieranno il tuo testimone dal momento in cui ti sei fermata e poi tu potrai riprenderlo a un certo punto, ed è la cosa bella di essere in gruppo, no? I social questo non ti consente di farlo perché funzionano i visi, cioè l'algoritmo è fatto per spingere le storie che contengono i selfie, no? Quindi è veramente complesso ragionare in questo modo, molto spesso anche se inizi ragionando in questo modo poi il tuo ragionamento per certi versi devia perché ti pieghi a quelle regole, Io non so bene appunto quale sia la linea, perché per diventare virale, per far girare un contenuto, per arrivare a sfondare quella bolla, quella camera dell'eco che descrivevi prima, è ovvio che tu debba in qualche misura rispettare alcune regole, altrimenti l'algoritmo non ti fa girare il contenuto, banalmente. Ed è il motivo per cui a un certo punto mi sono rotta e ho detto va bene, usciamo dal social, e quindi ho scritto il libro, ho partecipato a un programma TV nella speranza di poter ampliare in modo alternativo questa bolla. La verità è che queste alternative funzionano, il problema è che comunque per fare in modo che la gente poi rimanga ad ascoltarti devi comunque seguire quelle regole, perché altrimenti la gente se ne va, si annoia. Il social nasce appunto per essere principalmente intrattenimento. E quindi quando poi la gente capita sul profilo di una persona che sì, magari ci prova a farti il contenuto simpatico e ti parla di capelli, così magari ti fai una risata, poi quando vedi la politica però nulla toglie che tu magari voglia scappare via lontano perché non ti interessa. Quindi è sempre questo eterno compromesso tra quello che l'algoritmo vuole e quello che invece a te serve fare per andare a dormire serena con te stessa. Quindi questo per dire, io la vorrei tantissimo questa risposta, non ce l'ho, ho solo una marea di domande che continuo a farmi e che credo che in realtà continuare a farmi mi sia utile in questo momento, perché perlomeno non mi fa perdere la bussola del senso dell'orientamento, perché qua è un attimo, quindi non so, ti ringrazio per la domanda ma passo, ecco. Mi hai sollevato un sacco di pensieri, perché io ho iniziato, come ti dicevo prima, a farlo da poco, però mi rendo conto che è veramente un attimo, mentre fai attivismo sui social, passare a un egocentrismo e a un individualismo e staccarti completamente proprio dall'idea della collettività, no? Che è proprio il motivo per cui si parte a fare questa avventura, cioè almeno parlo per me, ma penso che poter parlare per chi lo fa in una visione, diciamo, politica di cambiamento verso una società che abbiamo oggi. E credo che sia importante all'interno dei social portare comunque queste nuove idee, questa nuova visione anche per le generazioni nuove, anche perché loro rispetto magari a altri tipi di generazioni non nati col digitale sono abituati invece a guardare, a leggere, a ascoltare. Io ho due persone piccole in casa, due adolescenti, e stanno imparando un sacco di cose attraverso i social, e il linguaggio diciamo inclusivo lo conoscono solo ed esclusivamente perché gli è stato spiegato attraverso i social. Quindi penso che non sia mai una perdita di tempo, e come dicevi te, forse proprio perché a volte è innaturale parlare davanti a un niente, perché in fondo tu sei davanti allo schermo del tuo smartphone, quindi non hai davanti delle persone, quindi è innaturale approcciarsi in questo modo. E forse così, mentre parlavi, mi veniva in mente l'idea che sarebbe bellissimo provare a fare un altro tipo di collettività, anche se virtuale, nel senso, come dicevi tu prima, è difficile farla. Però chi non dice che sia impossibile? Chi lo dice che non ci siano altri mezzi per poterla fare in modo differente? E proprio pensando a queste regole, a questo algoritmo che un po' ti spinge, un po' ti manda a casa, ti costringe anche a usare più metodi di comunicazione. Quindi che possono essere quelli molto seri, da spiegone, come li chiamo io, e magari anche molto ironici. Tu hai fatto dei reel che io ho trovato pazzeschi, e a chiunque li ha girati mi scriveva, diceva, chi non ti conosceva, ma chi è? Ma io devo seguirlo, ma è bellissimo! Che erano quelli dei cosmetici, dello shampoo. E sicuramente, prima di tutto, per fare un contenuto del genere non ci vogliono 5 minuti. Anche perché buttare sull'ironia qualcosa di molto complesso non è facile. E ti volevo chiedere, com'è stato per te fare questa cosa e com'è per te farlo, e c'è un'esigenza di base perché lo stai facendo? Allora, parto dalla fine. L'esigenza di base è proprio provare a fregare le regole dell'algoritmo, facendo in modo di finire per sbaglio magari sulla timeline di persone a cui quegli argomenti non interessano, solamente perché in realtà sto facendo una recensione di un prodotto, boh, per capelli o per il viso, quello che sia. Quindi sicuramente è un tentativo che devo dire funziona discretamente, di bucare la nostra bolla ed entrare nelle bolle degli altri, rompere le bolle agli altri. Ed è molto bello perché in realtà io ho imparato tantissimo attraverso le risate, cioè io sono una grande fan della stand-up e credo che tantissime cose possano essere veicolate con simpatia e credo che sia difficile, infatti io non ritengo di essere necessariamente simpatica, io dico sempre I am cringe but I am free. Riconosco che quei contenuti nello specifico siano un botto cringe, però sti cavoli, cioè tanto siamo qua ormai, giochiamo, va bene, quindi sono molto, anzi dovrei farne altri, ho un sacco di idee, però appunto come dicevi tu ci vuole tempo e purtroppo a volte quando devi coniugare pure il lavoro, le cose, le scadenze, diventa un po' difficile, quindi alla fine sacrifichi il tempo che devi stare su Instagram perché è la cosa più sacrificabile, no, in questo mondo. Però sì, mi piacerebbe farne altri, anche perché mi sono molto divertita a girarli, anche perché inconsapevolmente erano tutte idee che mi erano venute, cioè non mi sono mai messa a tavolino a dire adesso che mi invento, così parlando con amici e amiche era tipo dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro, lì sul mio taccuino a scrivermi le idee e poi quando avevo tempo mi mettevo davanti allo specchio. Pensate che ho comprato anche una ventosa per il telefono, perché io appiccico il telefono allo specchio per registrare, quello è proprio il mio bagno, cioè è tutto vero, no? Quindi è strano perché in realtà mi rende in qualche modo molto vulnerabile, cioè mi mette in imbarazzo, è molto più semplice per me scrivermi un discorso serio e registrarlo di fronte al telefono che fare la scema, perché comunque metto in campo una certa parte di sì, la chiamerei vulnerabilità, cioè non credo che credo di sentirmi molto più a mio agio a fare un discorso tipo questo, ok? Però non fa niente perché va bene tutto, ormai appunto siamo sui social, stiamoci, usiamo le regole che hanno scritto altri per portare acqua al nostro mulino, perché purtroppo in questo mondo non serve solamente avere ragione per avere ragione, devi pure saper dire le cose in un certo modo, e sui social questo funziona ancora di più, altrimenti non avremmo avuto la faccia di Silvio Berlusconi che fa ciao ragazzi benvenuti sul mio TikTok, capito? Cioè io dico, fino a che le cose cringe le fanno loro va bene, se le faccio io non va bene più, no, io voglio essere cringe se ciò serve alla mia causa, quindi ecco, mi immolo in questo senso e spero che sia utile ovviamente, altrimenti a un certo punto cambierò stile, diventerò serissima improvvisamente. E lo stile passa attraverso le parole di nuovo, e il tempo è un po' come le stories di Instagram, è un po' tiranno, ma proprio perché ci teniamo a passarci la parola anche attraverso diversi argomenti, tu oggi ci hai offerto una serie di spunti che qualche volta ci hanno permesso di prendere appunti e altre volte anche di sollevare le braccia come ad applaudirti. Infatti chi ci ascolta non può anche godere del fatto che noi ci stiamo guardando, e quando siamo col microfono muto spesso Francesca solleva le braccia per applaudire, e proprio perché dà il senso di quanto in modo empatico ci connettiamo attraverso le parole. Tu Federica cosa porteresti con te in questo bagaglio a mano, in questo zaino insomma da imbarco delle tue parole, cosa riporti con te o un'espressione che ci affideresti? Wow, allora io porto una piccola frase che in realtà non l'ho letta da qualche parte, ma adesso non la ricordo a memoria, quindi ogni volta che la racconto a qualcuno la parafraso in modo diverso, ma non me ne vogliate. A me piace pensare che la gentilezza possa essere radicalità in questo mondo. Io sono molto convinta che fare leva sulla rabbia sia fondamentale, perché la rabbia accende il motore del cambiamento, un po' come se fosse una scintilla, idem per la violenza, come dicevo all'inizio. Io però la mia personale diciamo espressione, la mia forma di personalissima rivoluzione la trovo nella gentilezza, perché io mi ritengo una persona costantemente arrabbiata, non ricordo più qual è l'ultimo giorno della mia vita che io ho passato tranquilla, sono sempre arrabbiata, però sono molto poco rabbiosa e quindi molto spesso questa viene scambiata un po' per estrema bontà, cioè tipo ah, non è la pasta per stare a questo mondo, dovresti essere più tosta, io sono una di quelle che piange costantemente. Sai quando le youtuber fanno quei video tipo perché queste cose se le dite a me va bene, io sono una persona forte, però c'è altra gente che invece è debole, io sono quell'altra gente, ok, io sono proprio quell'altra gente, il mondo virtuale per me è un grande nemico. Perché alcune cose che vengono scritte e vengono dette mi fanno stare molto male, però io credo che questa non sia una debolezza, io credo che in qualche modo l'essere persone soffici e gentili sia un atto radicale in un mondo che non ci vuole così. Cioè noi viviamo, noi persone diciamo che fanno parte di categorie marginalizzate, invisibilizzate, chi più ne ha più ne metta, siamo sottoposti a una quantità di stress che se volessimo veramente tutti i giorni spaccare tutto, cacchio, avremmo ragione. E io credo che l'esasperazione a cui ci porta, la frustrazione a cui ci porta questo sistema possa essere tradotta in numerosissimi modi. E spesso quando io mostro il mio modo di tradurre questa rabbia, che appunto è la gentilezza, la gente rimane un po' spiazzata. E quindi io credo che la parola che mi porto appresso negli ultimi anni, ma anche nel futuro, spero, sia proprio la gentilezza radicale. Io ho anche un tatuaggio che dimostra questa cosa. Io qui sulla spalla, voi adesso non lo vedrete bene, ma io adesso ve lo descrivo. Ho scritto sulla spalla rabbia feroce, ma con un font tutto infiocchettato, tutto arricciolato, tutto un po' in corsivino, no? Elegante, perché mi rappresenta. Io sono tanto arrabbiata, ma sempre in modo, boh, non lo so, pacato, gentile. Ed è una cosa che, ripeto, le persone spesso non capiscono, però questo è, secondo me funziona, cioè ho sperimentato questo modo di fare che mi fa sentire molto a mio agio, mi consente di vivermi la vita serenamente, quasi, e ho operato questa traduzione. Non so se per voi questa cosa ha senso, io però cercherò di portarmela perché l'ho scoperta un po' di tempo fa e per me funziona. E quindi ecco, un'altra delle possibili risposte a questo sistema violento, non lo so, magari può essere la gentilezza, così. Proviamoci. Beh, la gentilezza chi riesce, è più complicata da utilizzare rispetto magari ad altre forme, no? Cioè, se sei arrabbiato è più facile buttare dall'altra rabbia ad altre persone e magari bisogna fermarsi, guardarsi dentro e poi utilizzare un altro modo che può essere la gentilezza per rispondere a ciò che ci ha ferito. Proprio il discorso che facevi iniziale, no? Quante volte la violenza porta ad altra violenza e proprio forse spezzare le catene di questo sistema sta proprio lì. Ok, io ho subito la violenza, reagisco a mia volta con quella violenza o credo davvero in un cambiamento e magari agisco con un atteggiamento che è più consono anche alla mia persona ed essere più gentili. Quindi per questa parola ti ringrazio un sacco perché mi piace. E a me è venuto in mente, sono indecisa tra due parole, quindi scelgo questa, dai, forza e fragilità, perché in te Federica mi hai proprio trasmesso questa cosa qua. E la terza parola che non volevo dire ma dico è leggerezza. Perché? Perché spessissimo si pensa che queste tre parole insieme non possono stare. Una persona non può essere né leggera se è né forte né fragile insieme. E invece secondo il mio punto di vista è proprio lì che sta la forza, no? Il riuscire a stare in più emozioni, in più stati diversi, piangere, e poi col pianto di quella rabbia fare un reel che parla di cosmetici ma parlando di patriarcato. E sta proprio lì lo switch a volte nella comunicazione per poter permettere di essere ascoltati a più. Wow, e tra tutto questo vocabolario sono quasi disorientato perché sono veramente indeciso, ma credo che ciò che mi porto in questo piccolo bagaglio è l'espressione reazione. Ricordando quello con cui tu hai inaugurato questa conversazione parlando di violenza, ho immaginato quanto ci sia comunque un principio di azione e che questa, indipendentemente dal luogo in cui viene agita, vale in rapporto al fatto che c'è una scintilla al principio che la origina, e questa poi alla fine scotta quando nel momento in cui raggiunge altre persone, quando siamo due o tre come in questa circostanza, qualsiasi siano gli auricolari dai quali ci ascolteranno, io penso che scotteranno anche come le parole che tu ci hai fatto provare oggi, appunto, parole che proviamo, non soltanto che ascoltiamo. Noi, Federica, ti ringraziamo tantissimo sia per quello che hai fatto con noi oggi e per quello che continui a fare attraverso i tuoi mezzi, attraverso la tua forma plurale di fare attivismo digitale e di farlo anche in tutte le circostanze con tutti i mezzi che ti appartengono. Io ringrazio tantissimo Federica per la cura e l'attenzione nelle parole che ha detto oggi e per tutto il lavoro che fai. Grazie. Io vi ringrazio tantissimo, davvero, è stata una chiacchierata incredibile, fate un lavoro importantissimo, spero che avremo modo di risentirci presto, ma sono sicura di sì. Ci ascoltiamo e quindi anche grazie a chi, per l'appunto, ci sta ascoltando in questo momento e ci diamo appuntamento al prossimo episodio. A presto! A presto! Ciao! Non se ne parla è un podcast dell'Associazione Meti ed è prodotto da Officine B12 col supporto del Centro Medico Stendhal di Milano. Tutti gli episodi sono disponibili su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Seguici sulla tua app preferita e riceverai la notifica dell'uscita di ogni nuova puntata. E se il podcast ti è piaciuto, faccelo sapere e spargi la voce. Fa che se ne parli. A presto!